Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Black in gola, mal di gola, bruciore di gola che non passa mai, colpa delle polveri sottili o colpa di un colpo d'aria. Provo propoli, sciroppo, propoli, pasticche, provo, propoli spray, ma nemmeno la potenza delle api può far nulla, nulla, nulla di nulla. Tempi duri per i gargarozzi teneri. Buongiorno da Nicoletta. È bastata una settimana di freddo a metterci KO e sono 120.000 gli italiani alle prese con mal di gola, raffreddore, dolori vari e tosse. Non è la vera influenza, i medici ci tengono a mettere i puntini sulle i, sono forme parainfluenzali, diciamo così, le cugine dell'influenza vera e propria, che invece arriverà secondo i calcoli alla fine dell'anno. Ma vera o similvera, l'influenza è sempre una bella seccatura, specie se non passa in fretta e se si trascina. Quindi, cari amici, cerchiamo di evitarla. Volete raccontarmi come fate voi e se nonostante tutto arriva, come vi curate? Avete un rimedio da suggerirmi? Brodo, calze di lana, vin brûlé, echinacea, zenzero? 800 24 00 24. Inizio io. Miele. È facile, mi direte voi, lo sapevo già, ma forse non sapete che la ricerca ha promosso questo rimedio della nonna. È un vero toccasana, soprattutto per alleviare il fastidio della gola irritata e per la tosse, e tra l'altro ha effetti antimicrobici e antiossidanti. In linea con noi abbiamo il professor Ciro Vestita, medico dietologo all'Università di Pisa. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Tutto vero. C'è un lavoro della Pennsylvania State University che dice questo: un cucchiaino di miele in un pochino di tè o di latte alla sera funziona molto di più nelle tossi degli adulti, dei bambini, nelle tossi catarrali, delle prime vie aeree, di tanti sciroppi di banco. Questa è una cosa bellissima e noi lo vediamo dal punto di vista pratico. Se un ragazzino di 10-12 anni o un anziano di 60-70 anni che non vuol prendere farmaci, curandolo in questa maniera e aggiungendo delle foglie di salvia nella decozione del tè o del latte, il successo è unico. E poi un'altra cosa, la propoli. La propoli è una resina di una potenza inaudita che le api mettono davanti all'alveare. Propolis vuol dire davanti alla città. Bene, sfidate qualsiasi ragno, qualsiasi batterio ad entrare nell'alveare, la resina li imbalsama e li uccide. In sintesi, se noi usiamo dal punto di vista curativo, personale, degli spray di propoli, il successo è enorme. Innanzitutto è un antidolorifico molto forte, ma poi un antibatterico micidiale. E questa è una cosa ormai conosciuta da millenni e che ovviamente è stata studiata, rivalutata anche da recenti studi scientifici. Quindi propoli, latte, miele, salvia sono metodiche eccezionali nei confronti di queste piccole patologie che stanno arrivando. Grazie professor Vestita per essere stato con noi. Buona giornata. Chi è? Il professor Tucci. Ah, il professore di violino, il violinista. Come va professore? La lirica riprende? Ah, la lirica sì, sono io che non mi riprendo. Asma bronchiale. Sentire? Tossisci? Alt! Tossisci? Alt! Respira forte. Alt! Non respirare. Eccolo là, le iniezioni le fai? Sì, un giorno sì, un giorno no. Quest'estate mare e sole, terapia solare. E per quel tinticarello in gola? Fai da barba. È magnifico. Allora, tosse, chi non lo conosce, secca, stizzosa, grassa, abbaiante, intermittente, ne esistono, pensate, circa 200 tipi, spesso arriva con l'influenza. Qui in studio con me oggi il dottor Sergio Arari, direttore dell'unità operativa di pneumologia all'ospedale San Giuseppe di Milano. Buongiorno dottor Arari, benvenuto. Buongiorno. Il dottor Arari ci aiuterà a capire di più, a evitarla, magari la tosse, ma sicuramente ad affrontarla nel modo migliore. Dottore, l'inverno è la stagione della tosse, che è una delle complicanze più frequenti dell'influenza, tanto che ci sono persone che per evitarla si prendono subito gli antibiotici con la speranza di evitare e scongiurare il pericolo. In realtà la terapia antibiotica non ha molto significato in gran parte delle situazioni che lei racconta. La tosse è un sintomo molto frequente, il più frequente forse che esiste in medicina, e può avere tantissime cause, ma per fortuna la maggioranza di queste cause sono cose banali che possono essere curate con rimedi anche molto semplici. La più frequente causa di tosse però è fondamentalmente l'asma bronchiale o le malattie, diciamo così, sibilasmatiche come la bronchite asmatica, che è un po' quella raccontata in quel divertente episodio del medico della mutua di Alberto Sordi che avete appena mandato in onda: la tosse come sintomo dell'asma e il pizzicarello in gola, che molto spesso i pazienti riferiscono una sensazione di vellicchio, si dice, di fastidio, di irritazione. Alcuni addirittura vanno dall'otorino pensando che sia qualcosa sulle corde vocali. In realtà sono sintomi che possono essere ricondotti a situazioni di tipo asmatico, che è la più frequente, ripeto, causa di tosse. Poi esistono tante altre. E che spesso non viene diagnosticata. Ci sono persone che sono asmatiche e non lo sanno. Assolutamente, molto spesso i pazienti arrivano con disturbi che datano da molti mesi, se non addirittura anni, tosse o altri fastidi, che in realtà non vengono riconosciuti come forme di tipo asmatico. E la diagnosi di asma in realtà è una diagnosi molto semplice: basta visitare il paziente, effettuare una spirometria, che è un semplice esame del respiro. Basta soffiare in un tubo, vero? Esattamente, basta soffiare in un tubo e nel 90-95% dei casi la diagnosi è fatta. Io aspetto i vostri consigli, i vostri rimedi all'800 24 00 24. I nostri esperti, il dottor Arari, tra poco ci raggiungerà anche il dottor Boffi, ci daranno i loro. Ma tra i vari consigli noi aggiungiamo anche una raccomandazione: tossite, starnutite con la mano davanti, meglio ancora con un fazzoletto davanti, eviterete di spargere in giro i virus. E a proposito, secondo voi, questa è la domanda di oggi, contagia di più uno starnuto o un colpo di tosse? 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Dottor Arari, nel New England Journal è stata pubblicata la classifica dei disturbi per cui ci rivolgiamo al nostro medico, e al primo posto c'è proprio la tosse. Ma vogliamo fare un po' qualche distinzione, perché sappiamo che c'è tosse e tosse. Il tempo anche della durata del sintomo può fare la differenza, ma io vorrei chiedere a lei se riusciamo a raccontare qualcosa di più di questo sintomo ai nostri ascoltatori in base a tre variabili. Analizziamo il suono. La vedevo già attenta, eh? Il momento della giornata in cui si manifesta, di giorno, di notte, e anche i luoghi in cui tossiamo di più, cioè tossiamo di più in ambienti chiusi o all'aria aperta. Ci bastano queste tre variabili che lanciamo anche ai nostri ascoltatori in modo che possano raccontarci il loro sintomo anche su queste, sulla base di queste indicazioni? Io credo che sia importante che il paziente, quando va dal dottore per raccontare il suo disturbo, sia in grado di raccontarlo bene, una cosa che è molto utile, più di tante altre. E per raccontarlo bene bisogna avere alcuni elementi conoscitivi. Allora, quelli che derivano, per esempio, dalle tre tossi che voi avete fatto ascoltare sono già molto indicativi. La prima era una tosse che io definirei abbagliante, come quella che può per esempio manifestarsi nei casi di ipertosse, dove addirittura ci possono essere degli accessi particolarmente acuti. La seconda era una tosse stizzosa, cioè irritativa ma secca. La terza era una tosse grassa, o se volete più tecnicamente definita produttiva. Allora, d'altra parte è importante, come diceva prima lei, che il paziente cerchi, quando va poi dal dottore, di raccontare anche se la tosse è scatenata da certe cose, come per esempio il passaggio da un ambiente a un altro, dall'interno all'esterno di un edificio, sotto la doccia con i vapori caldi, sotto nei giorni in cui c'è particolare nebbia. Dopo l'esercizio fisico. Dopo l'esercizio fisico, assolutamente. E dall'altra parte, se ha delle correlazioni con dei momenti, come diceva prima lei, della giornata. Dopo i pasti, lontano dai pasti, quando mi metto sdraiato, quando vado a letto, quando invece sto seduto. Tutte queste cose forniscono poi al medico una serie di indicatori molto utili per porre poi la diagnosi. Certo. Abbiamo Paola dalla provincia di Olbia. Buongiorno Paola. Buongiorno a voi. Ci racconti, ha un rimedio oppure una domanda? Dunque, sto riprendendo un rimedio antico, cioè sì, il nostro miele della Gallura, il limone che noi nelle campagne ancora coltiviamo assieme ad altri agrumi, e la lavanda, sia il fiore fresco oppure una semplice tisana. Stamattina sto facendo una gelatina di bacche di mirto, appunto per l'inverno, perché per noi è molto curativo. Non uso mai lo zucchero nelle gelatine, uso sempre il nostro miele. Paola, ci manda la ricetta? Eh no, le ricette sono segrete. Eh no, dai, ci faccia amici, Paola, pure ci mandi un po' di questa allora gelatina. Allora venite in Gallura d'inverno, non solo d'estate, mangerete queste cose buone. Grazie a Paola. Miele, lavanda e limone, un rimedio per la tosse che arriva dalla Sardegna. Dottor Arari. Posso solo invidiare questi fantastici rimedi e queste gelatine che già... sembrano essere buonissime al solo racconto, ma alcuni di questi rimedi effettivamente sono molto utili. Il miele, il propoli, come è stato detto anche poc'anzi, sono rimedi efficaci e notoriamente controllano la tosse e facilitano anche le secrezioni più fluide. Quindi posso essere dottor Arari, noi di solito quando la tosse è secca cerchiamo in qualche modo di farla diventare grassa, perché sembra che poi la tosse grassa guarisca meglio. È corretto oppure ogni tosse ha una sua terapia anche non farmacologica? Come sempre in medicina bisogna capire che cosa sta dietro al sintomo. Se dietro a una tosse secca sta, tra virgolette, un'asma bronchiale, ha poco significato farla diventare produttiva, bisogna curare l'asma. Se invece dietro a una tosse secca sta una bronchite, allora ha significato cercare di fluidificare il catarro, di muovere le secrezioni, di facilitarne quindi anche la mobilizzazione. Però bisogna dire una cosa molto importante: la tosse è un meccanismo fisiologico di protezione dell'organismo, quindi è una reazione sana dell'organismo. Inibirla può essere controproducente. Bisogna capire perché l'organismo sta reagendo con la tosse a uno stimolo e qual è la ragione per cui si sta comportando così. Gli sciroppi antitussigeni o gli altri rimedi antitosse che molto spesso vengono venduti controllano il sintomo ma non vanno alla radice del problema, e inoltre, ripeto, controllare il sintomo, che è un sintomo sano dell'organismo di reazione, potrebbe anche rivelarsi controproducente. Abbiamo Grazia che ci chiama da Firenze. 800 24 00 24. Buongiorno Grazia. Buongiorno tesoro. Dovrebbe abbassare la radio, grazie. Sì, chiudo la radio? Può abbassarla. Benissimo. Allora, io ho questo problema. Dunque, da diversi anni mi è stato diagnosticato un riflusso gastroesofageo, per cui mi prende solamente con delle tossi così stizzose che sto malissimo sia di notte che di giorno, nonostante le mie terapie che io sto prendendo. Ma tante ne ho cambiate, è 4 anni che prima sono andata dall'otorino, mi ha fatto fare degli esami e con questi esami mi è venuto fuori questo riflusso. E non riesco in nessuna maniera a mandarlo via, è noioso la notte perché mi prende continuamente, mi sveglio dopo non mi riaddormento, il giorno, oltretutto... Quando io per esempio assumo un prodotto un pochino dolce o una pasticca anche per il riflusso che mi si scioglie, mi viene su un pizzicorino che un stanca. Pizzicorino Alberto Sordi direbbe: ma lei è una donna, si tagli la barba. Sentiamo che cosa dice il dottor Arari. La telefonata della nostra ascoltatrice Grazia dimostra che la tosse noi la leghiamo sempre, no? È la voce del polmone, si diceva, sì. In realtà è la voce anche di altri organi, di altre, come ad esempio può essere un sintomo da reflusso. Sì, dunque noi sappiamo che il reflusso gastroesofageo, anche dei micro reflussi che spesso non danno sintomi e segni di sé, quindi che passano misconosciuti, possono scatenare la tosse con un meccanismo irritativo. Però devo dire che in questi anni, a mio parere, un'opinione personale, è stato un po' sovravalutato il ruolo del reflusso gastroesofageo nella tosse. Noi vediamo oggi pazienti che hanno fatto addirittura gastroscopie per il sintomo tosse senza aver fatto una spirometria, che invece è un esame banale e potrebbe escludere l'asma piuttosto che altre patologie. Quindi attenzione a far sempre ricondurre la tosse al reflusso. Il reflusso è un'altra patologia molto frequente nella popolazione generale, ma proprio perché sia la tosse che il reflusso sono molto frequenti, non è detto che l'una sia causa dell'altra in un soggetto. E l'altra cosa è che se è impostata, come nel caso della nostra ascoltatrice, una terapia per il reflusso e la tosse persiste, beh, allora il problema deve essere un altro e conviene rivolgersi a uno specialista pneumologo per gli approfondimenti del caso. Abbiamo Massimo, ci chiama da Livorno. Buongiorno Massimo. Buongiorno a lei e ai buongiorno. Dunque, innanzitutto volevo dire, non so, mi ero assentato un attimo, quindi mi scuso se... Massimo, no, ma come fa ad assentarsi? No, lei deve seguirci sempre. Sì. No, ma un attimo. Ah, solo. Va bene, ok. No, dicevo, dunque, innanzitutto, non so se era stato detto, ma mi sembra che il veicolo più veloce deve essere lo starnuto, a regola, se non sbaglio, il portatore di microbi. Bravo Massimo. Sì, va. Bravo Massimo, il dottor Arari ci può aiutare Massimo a spiegare perché. Sì, lo starnuto in realtà determina la liberazione di particelle molto più lontane, che possono essere espulse molto più lontane rispetto al colpo di tosse. Perché il virus è più veloce, vero? Sì, il virus può essere sparato a una velocità di 160 km/h e contenere 40.000 goccioline di saliva, mentre nel colpo di tosse le particelle infette sono stimate essere circa 3.000 e viaggiano al massimo a 80 km/h, quindi la metà rispetto a uno starnuto. In collaborazione con Rizzoli.it il nostro ascoltatore riceverà a casa la tosse di Zeno. A proposito di tosse, ho un'altra domanda per voi prima dei mercati. Posso... Dove si trova il teatro della tosse? Da chi prende il nome e chi l'ha fondato? Essere e benessere. Mi viene un po' di tosse, non so perché quando si parla di tosse è quasi... Allora, intanto 800 24 00 24, se volete raccontarci i rimedi che utilizzate per evitare le malattie da raffreddamento e per curare i sintomi delle malattie da raffreddamento. Noi oggi ci stiamo focalizzando sulla tosse. Dottor Arari, vorrei leggerle qualche sms, glielo leggo di fila prima di dare la parola ai nostri ascoltatori che sono in attesa, perché gli sms ci aiutano a puntualizzare un po' alcune cose. Ad esempio, un ascoltatore mi scrive: mi capita la classica tosse da pizzico in gola, dura poco, circa un'oretta, poi basta, asma o casualità? Un altro ascoltatore mi scrive: a me viene la tosse alcune volte quando esco da dentro a fuori, e a grande richiesta la tosse dello sportivo, come lo definisce Carlo da Firenze, cioè quella tosse che insorge dopo l'esercizio fisico, quando il nostro organismo è sottoposto ad uno sforzo, una corsa, una pedalata. Tutti questi disturbi che sono stati raccontati da questi sms sono tutti riconducibili all'asma bronchiale. La tosse dell'esercizio fisico poi è proprio un classico dell'asma bronchiale, soprattutto nei giovani, soprattutto nei ragazzi. Ah, quindi se ci viene dopo l'esercizio fisico deve suonarci un campanello. Sì, sì, perché è scatenata dall'iperventilazione che si ha appunto quando si fanno sforzi fisici. L'iperventilazione nei soggetti predisposti determina una reazione che è broncospastica e che ha come primo sintomo non tanto la mancanza di fiato quanto la tosse. Quindi questo, come anche tutti gli altri sms che prima lei ha riportato, sono tutti molto suggestivi per forme asmatiche che vanno indagate e approfondite. Mario ci chiama da Catania, buongiorno Mario. Buongiorno a voi, grazie. Io volevo chiedere al professore proprio questo, cioè riferimento all'asma bronchiale, che più o meno da 2 anni e mezzo diciamo mi è capitata. Infatti lamento dei sintomi che sono tutti già stati espressi dai vostri precedenti interlocutori, chi è intervenuto, ossia tosse notturna, tosse sotto sforzo. Io corro, insomma, faccio circa 25 km la settimana. A volte mi capita, a volte non mi capita, comunque che durante la corsa mi viene una crisi appunto di asma. Io vorrei chiedere al professore se l'uso del salbutamolo è un rimedio consigliato, oppure se alla lunga può comportare dei fastidi o dei peggioramenti, o se c'è qualche altro rimedio tipo i cortisoni, che io finora Allora, i miei ascoltatori, Mario, sanno, e comunque lo dico anche a lei che magari ci ascolta per la prima volta, che diagnosi telefoniche non possiamo chiedere ad un medico di prescrivere per radio un farmaco, perché i medici hanno bisogno di fare una diagnosi. Detto questo, il dottor Alari magari ha qualche suggerimento da dare. Sì, dunque, prima di tutto, normalmente, questa è un'informazione che può servire a tutti quanti, il trattamento dell'asma è un trattamento cronico ed è molto importante sapere questo. È come il trattamento di una persona che ha la pressione alta. Quella persona deve prendere la pastiglia per la pressione tutti i giorni. Se la prende un giorno sì, un giorno no, il giorno che non la prende la pressione ritornerà alta. E così il trattamento dell'asma. Nel 90% dei casi il trattamento deve essere effettuato non alla comparsa dei sintomi, ma continuativamente, e non deve essere soprattutto sospeso quando i sintomi migliorano, vanno via, che è la prova dell'efficacia del trattamento, ma il trattamento deve essere poi adeguato sulla situazione del paziente, proseguito nel tempo. Questa è la prima cosa. L'altra cosa è che nella tosse da esercizio fisico l'uso di medicazioni anche chiamata come il salbutamolo prima dell'esercizio fisico può essere utile a prevenire la comparsa della tosse. Quindi, oltre alle terapie croniche, possono essere inserite su consiglio del medico poi anche delle terapie sulle necessità del momento, come in questo caso lo sforzo fisico, per prevenire o controllare i sintomi che compaiono. 800 24 00 24, un numero da chiamare se avete dei dubbi, se volete raccontarci i vostri rimedi per così spegnere i sintomi o prevenire i sintomi delle malattie del raffreddamento, tosse compresa, ma anche per rispondere alla domanda a proposito di tosse: dove si trova il teatro della tosse e da chi prende il nome, chi l'ha fondato? Alla prima risposta esatta, il volume La psicoanalisi. Sapete che il Sole 24 Ore presenta la più completa collana dei principali saggi, lezioni e pensieri di Freud ogni giovedì, e quindi in anteprima all'ascoltatore che ci darà la risposta esatta sul teatro della tosse, una domanda con più risposte, riceverà a casa appunto il 7° volume. Intanto andiamo a Mario, che ci chiama da Monza. Buongiorno Mario, benvenuto. Mario? Pronto? Da Monza sono Renato. Ah, ecco, gli abbiamo cambiato nome, ma la Monza l'abbiamo salvata. Renato, buongiorno. L'ascolto sempre volentieri. Grazie. Mi fa piacere. Niente, la mia cura, l'ho detto, quella che era per la tosse alla sua assistente. Ma non ha fatto la spia, ce la racconti in onda. Le polentine di una volta. Siamo cresciute tutte a polentine, forse anche il dottor Arari. Molto calde sul petto. Mia moglie è una moglie, io ho 77 anni, sì. Quindi mia moglie ancora è una moglie di quelle di una volta, ha la voglia di farle e sì. Per me è efficacissimo. Io faccio sport da anni e quando veramente che sento questa tosse che non si stacca, che insiste per parecchi giorni, sì. La polentina di farina di lino. Di lino con un po' d'olio calda. Bollente, sì. Anzi mi ustiono la No, ecco quello, magari evitarlo, ma bella calda e la tosse però se ne va. Efficacissimo. Grazie Renato. A lei, buone cose. Buone cose anche a lei. Antonella, buongiorno da Aosta. Buongiorno. io ho un quesito, in realtà forse avete già risposto, perché io ho la tosse credo da tutta la vita, ho 45 anni e da piccola ricordo mia mamma che mi faceva degli intrulli di burro e zucchero per la notte piuttosto che miele e limone, ma comunque la tosse non passa. Di fatto ho la tosse quando viene più umido o dopo, che ne so, la camminata piuttosto che ci siamo, che mi avete già risposto. Antonella, e lei che risposta si è trovato dalle indicazioni del dottor Arari? Cosa ha capito? Che la sua potrebbe essere una tosse? È asmatica a sto punto, anche se non mi è mai passato, proprio mai passato. Vede? Vede incontrare il dottor Arari un giorno a Essere Benessere, magari riesce a risolvere questo problema che così si porta dietro da tutta la vita. Dottor Arari, è abbastanza frequente però. Sì, sì, sì, i sintomi sono molto probabilmente ascrivibili a una situazione di tipo asmatico. Poi adesso non è la sede, ma insomma ci sono varie forme d'asma, varie gradualità, probabilmente questa è una forma molto lieve e anche i trattamenti di conseguenza sono molto variabili a seconda della severità dei sintomi, dei disturbi, però è molto verosimile che sia riconducibile a una situazione di questo tipo che può essere accertata con pochi e semplici esami. La tosse dei nostri bambini, soprattutto quando sono piccoli, stringe il cuore perché si svegliano la notte, hanno queste tossi così violenti, questi attacchi di tosse che gli impediscono il riposo, altri bambini proprio poi non mangiano più dalla tosse e noi mamme andiamo in ansia. Dottor Arari. Dunque, soprattutto per anche chi papà vive... forse. Certo, assolutamente, assolutamente. Per chi vive in città sicuramente ci si è accorti che il numero di bambini con la tosse è molto aumentato in questi anni e questo è legato purtroppo all'aumento dell'inquinamento atmosferico. È una cosa scontata, ormai esistono quantità di studi scientifici che hanno provato come l'aumento delle malattie respiratorie, in particolare dell'asma bronchiale, sia riconducibile all'aumento delle polveri sottili e di altri inquinanti. I bambini perché sono più suscettibili? Le due categorie più suscettibili sono i bambini e gli anziani, ma focalizziamoci sui bambini, fondamentalmente per queste ragioni. Prima di tutto sono in una fase di crescita in cui ancora l'organismo è più suscettibile agli stimoli esterni. Secondo, sono più bassi di un adulto e quindi più vicini fisicamente ai tubi di scappamento e all'asfalto. Terzo e non ultimo, la ventilazione minuto, ovvero sia il numero di atti respiratori e la quantità di aria che viene scambiata in un minuto in un bambino è proporzionalmente più alta di quella che scambia un adulto. È una cosa normale che avviene nei bambini, ma questo comporta che poi la quantità di polveri sottili ed inquinanti che i polmoni filtrano nel polmone di un bambino è più alta quella che viene filtrata dai polmoni di un adulto. Tutto questo concorre al fatto che nelle grandi città l'aumento dei casi di asma e di disturbi respiratori nella popolazione pediatrica sia assolutamente molto importante. Essere e benessere. Ci stiamo occupando della tosse dei nostri bambini, soprattutto della tosse dei bambini che vivono nelle metropoli, insomma l'aria non aiuta, infatti dottor Arari ci sono delle mamme che sono rassegnate perché questa tosse duri tutto l'inverno, passa poi con la bella stagione, qualcosa si può fare? Purtroppo non è facile proteggersi dall'inquinamento, quindi su questo si può fare relativamente poco a parte il buon senso che guida tutti i nostri comportamenti, ma bisogna però avere un campanello d'allarme nei bambini, perché se la tosse persiste più di un certo periodo di tempo è bene comunque valutare se appunto non è la spia di una situazione asmatica, perché se è la spia di una situazione asmatica che sia legata all'inquinamento o che sia legata a altri fattori, il risultato è che ormai il bambino è asmatico e bisogna quindi curare la malattia perché si risolva il sintomo. Quindi se la tosse non è semplicemente l'epifenomeno di una bronchite o di un'influenza e va avanti più di quanto non sia ragionevole pensare, certamente se va avanti oltre un mese, allora è giusto pensare di approfondire in questo senso. E soprattutto se avete bambini a casa, anche se non li avete, ma in particolar modo se avete bambini a casa e siete fumatori, non peggiorate la situazione, insomma non fumate, eh? Non serve arieggiare, non vale la scusa, beh con quello che respirano fuori cosa potrà fare una sigaretta. In linea con noi abbiamo il dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, buongiorno dottor Boffi. Buongiorno Nicoletta. E gliela servo su un piatto d'argento. Di fumo abbiamo parlato tante volte, oggi volevo brevemente raccontare un esperimento che abbiamo fatto noi all'Istituto dei Tumori per valutare il problema del fumo passivo anche negli ambienti aperti, in particolare negli stadi. Sì. E questa idea me l'aveva fatta venire un nostro paziente che era andato in Inghilterra a vedere una partita e accendendo una sigaretta mi ha raccontato che è stato subito bloccato da un poliziotto. E allora abbiamo fatto una misurazione delle polveri sottili durante una prima, durante e dopo una partita di calcio e abbiamo scoperto dei livelli molto elevati di polveri sottili di nicotina all'interno dello stadio. Questo è dovuto all'effetto tettoia, che è tipico degli spazi parzialmente coperti e che determina quindi un ristagno delle polveri sottili emesse dalle sigarette, che assieme all'affollamento naturalmente dello stadio spiega queste alte concentrazioni che sono dannose chiaramente, come dicevate prima, per i bambini, per gli asmatici, cardiopatici, e possono dare la cosiddetta, che possiamo chiamarla così, la tosse da stadio. E la UEFA si è mossa accogliendo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è vero dottor Boffi, ha vietato il consumo e la vendita di sigarette in tutti gli stadi che ospiteranno gli europei di calcio 2012. Europei, sì, anche il Comune di Milano insieme al Consorzio San Siro sta pensando alla proibizione del fumo nello stadio di Milano, speriamo. E insomma, bravi che con questo studio dell'Istituto dei Tumori avete messo un po' la pulce nell'orecchio, più che altro avete misurato gli effetti del fumo. Ma no, arrivo a dire che se dovrebbe andare allo stadio con la mascherina P3, beh, sarebbe un po' demenziale, ecco, è giusto comunque secondo noi prima di tutto l'informazione, quindi sapere che l'inquinamento è prodotto da un sacco di fonti, un po' così a macchia di leopardo, c'è il problema del fumo passivo, soprattutto in certi ambienti, gli ambienti affollati e parzialmente coperti, quindi se si può evitare quest'altra forma di irritazione, di tosse, anche quando si dice che il tifo fa ammalare, dottor certo, Boffi? Certo, si può benissimo evitare di fumare almeno per quelle 2-3 ore, no? Grazie al dottor Boffi. Grazie a voi. Andiamo da Pasqua, che ci chiama dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Pasqua. Volevo dare la soluzione, quello che ho trovato, perché... Dunque, Fondazione Luzzati, mi sembra... Genova, Compagnia della Fortezza. Sì, ma perché perché si chiama il Teatro della Tosse? Lei mi ha detto a Genova, sì? Non ho trovato. Mannaggia, Pasqua, va bene, grazie, mi dispiace. Eusebio, dalla provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, salve. Buongiorno. Io Eusebio. Oramai da tantissimi anni, io ho 42 anni, un paio di volte all'anno ho l'influenza, come tutti. Dato che però io non ho mai avuto la febbre in vita mia, neanche, non so, la classica tacchetta, no? Sì. Un'influenza. Neanche quel po' di febbre per stare niente, a casa da scuola, niente, mannaggia. Nulla, e allora? Nulla. Eusebio? Niente, un'influenza mi dura invece dei classici 3-4-5 giorni, anche 2-3 settimane. Si manifesta con soprattutto tosse. Tosse, mal di schiena, mal di gambe, eccetera. Però la cosa strana della tosse è che basta un cambiamento di temperatura. Ho la tosse persistente tutta la giornata, sentita, secca, come va, mi metto sotto le coperte, mi passa immediatamente. Sì, e quindi ho un maglione a collo alto e tolgo il maglione mentre non so, metto un altro indumento, comincio immediatamente a tossire. Beh, ma a tossire fortemente. appena, non so, è chiaro che se io prendo, certo, una Eusebio, pasticca... abbiamo capito che la sua tosse, insomma, è un po', no, è molto varia, e ci sono delle cose che l'accendono e altre che la spengono, un po' come un interruttore. Ma adesso questi non sono proprio sintomi classici per cui bisogna capire. Non c'è una letteratura capire... col maglione, no, nel, sotto, no, le coperte, no, la tosse, no, non avete fatto. No, okay, su questo no. Devo dire che però il fatto che si accompagni la tosse a un episodio di tipo influenzale fa sospettare, questo lo dico non tanto sul caso del signor Eusebio, ma in generale, quando ci sono queste tossi persistenti dopo un episodio di influenza, ha appunto un'asma molto lieve, non per ribattere sempre lo stesso concetto, ma perché spesso accade così: il virus ha un effetto di tipo irritativo sui bronchi che scatena la tosse, che poi perdura per un po'. Sergio da Genova. Sergio. Pronto? Ma lei è super avvantaggiato, eh? Sono in Genova. Va bene, allora Sergio. Ho anche l'età per dare la risposta esatta, perché io addirittura ho assistito alla prima del Teatro della Tosse, alla sua fondazione, in Salita della Tosse. Bravo, quindi a Genova, in Salita della Tosse, fondatori Tonino Conte, Luzzati e Tonino Conte. Sergio, Tonino Conte, Luzzati dopo. Tonino Conte e Luzzati dopo, per... che precisazione. Sergio, lei mi dà grandi soddisfazioni, le faremo arrivare a casa il libro di Freud. Grazie Sergio. Mille. Auguri a voi, grazie ancora. Auguri anche a lei, chissà se la focaccia e delle trenette col pesto tengono lontano la tosse. Sicuramente tengono lontano altre cose e ci fanno piacere. Allora, dottor Arari, grazie per essere stato con noi, grazie a voi, grazie che a voi. Ci avete seguito, ci avete mandato i rimedi che metteremo anche sul nostro profilo Facebook. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.